Vi sono aspetti della vita che ci lasciano profondamente scossi, come per esempio essere traditi da un amico o dal proprio coniuge. Sono esperienze alle quali non eravamo preparati e che lasciano nel nostro intimo una profonda delusione. Eppure dovremmo essere preparati a tutto, anche se non a tutto siamo preparati. La parola di Dio in merito ci aveva già avvertiti. Quando ho applicato il mio cuore a conoscere la saggezza e a considerare le cose che si fanno sulla terra, perché gli occhi dell'uomo non godono sonno né giorno né notte, allora ho scrutato tutta l'opera di Dio e ho visto che l'uomo è impotente a spiegare quello che si fa sotto il sole. Egli ha un bel affaticarsi a cercarne la spiegazione, non riesce a trovarla. E anche se il saggio pretende di saperla, non però può trovarla. Sì, io ho applicato a tutto questo il mio cuore e ho cercato di chiarirlo, che cioè i giusti e i saggi e le loro opere sono nelle mani di Dio. L'uomo non sa neppure se amerà o se odierà. Tutto è possibile. Ecclesiaste 8, 16, 9, 1. L'Ecclesiaste è un uomo che ha esaminato la vita con una razionalità rara, ha preso visione di ciò che succede ed è successo per concludere che alla fine anche per i saggi tutto è possibile. Per quanto si facciano promesse e si prendano degli impegni, il futuro non lo conosce nessuno. E come dice un'altra versione, tutto è davanti agli uomini. Nessuno di noi può essere certo che si mantenga una promessa o un impegno anche se a farli sono delle persone religiose, sagge e giuste. L'unica cosa certa è che non possiamo essere certi di nessuno. Brutto a dirsi. Brutto da credere. Brutto da accettare. Ma la realtà non si cambia con idee romantiche. Tanto vale essere realisti per non provare in seguito delle delusioni, perché le delusioni sono la conseguenza delle illusioni. Chi non si illude non rimane deluso. Così, dato che nella vita può succedere di tutto, è bene prepararsi anche a vedere persone religiose, pie, timorate di Dio, compiere atti che non solo sono gravi ma sono peggiori di chi non professa una fede. Sembra assurdo, ma le persone peggiori sono proprio le persone religiose. Per quanto posso aver capito, le persone religiose o sono esempi di virtù o sono la peggior razza che ci sia. A questo scopo vale la pena di considerare quando un credente sia peggio di un incredulo, per sfuggire a eventuali errori e per non rimanere delusi, delusione che può diventare un sasso di intoppo per chi desidera onorare Dio. Quasi 4.000 anni fa, l'Eterno aveva dato delle leggi che riguardavano ogni settore della vita di una persona. Non era necessario conoscere tutta la legge di Dio per sapere come ci si doveva comportare. Era sufficiente ricordare ciò che troviamo scritto nel capitolo 18 e 19 del libro del Levitico. In questa parte della legge vi erano regole in merito ai rapporti sessuali, al culto, alla famiglia, a come coltivare i campi, a rapportarsi con il prossimo, a rispettare il proprio corpo e lo straniero, a non rivolgersi ai medium. Ma il popolo di Israele non ha voluto ascoltare benché l'Eterno li avesse avvertiti. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: «Parla ai figli di Israele e di loro, io sono l'Ecasserno, il vostro Dio. Non farete come fanno nel paese di Egitto dove avete abitato, e non farete come fanno nel paese di Canaan dove io vi conduco, voi non seguirete le loro usanze. Metterete in pratica i miei decreti e osserverete i miei statuti per conformarvi ad essi. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Osserverete i miei statuti e i miei decreti, mediante i quali chiunque li metterà in pratica vivrà. Io sono l'Eterno. Levitico 18, 1 e 5. Fino all'uscita dell'Egitto Israele non era un popolo, non aveva leggi sociali e morali che lo riguardassero. Così la prima cosa che fece l'Eterno era dargli una legge. Nel dare le disposizioni, Yahweh avvertì Israele di non seguire i costumi del paese d'Egitto e neppure di seguire le usanze che avevano le popolazioni dove sarebbero andati ad abitare. In definitiva, l'Eterno ordinò al popolo di Israele di seguire le sue leggi, e solo le sue leggi, regolamenti che si differenziavano da qualsiasi altro popolo. Ma l'ordine dell'Eterno cadde a vuoto, e la sua sentenza, in merito alla loro disubbidienza, fu diretta. Nella Lial, Anno nono di Osea il re di Assiria espugnò Samaria, deportò Giel, israeliti in Assiria e li stabilì in Hala, e sul Habor, fiume di Gozan, e nelle città dei Medi. Questo avvenne perché i figli de Israele avevano peccato contro El Eterno, il loro Dio, che li aveva fatti uscire dal paese de Egitto, liberandoli dal potere del faraone re de Egitto, e avevano riverito altri dei. Essi avevano seguito le usanze delle nazioni che l'Eterno aveva scacciato davanti ai figli di Israele e quelle introdotte dai re di Israele, 2 re 17, 6 a 8. Il popolo di Israele non riuscì a mantenersi moralmente integro e si comportò come si comportavano tutti i popoli. Ma poiché l'Eterno, la divinità di Israele, non è paragonabile a nessun'altra divinità, quando si trasgrediscono le sue leggi, non si è simili ad ogni altra persona religiosa, ma si è molto peggio. Il profeta Ezechiele lo ha detto più volte. Così parla il Signore, l'Eterno, ecco Gerusalemme. Io la avevo posta in mezzo alle nazioni e agli altri paesi che la circondavano. Essa si è ribellata alle mie leggi per compiere impietà più delle nazioni, si è ribellata alle mie leggi più dei paesi che la circondavano, poiché ha disprezzato le mie leggi, non ha camminato seguendo le mie prescrizioni. Ezechiele 5, 5 a 6. Paragonando la città di Gerusalemme a Sodoma e Samaria, il profeta continua, dicendo, Samaria non ha neppure commesso la metà dei tuoi peccati, tu hai moltiplicato le tue abominazioni più di loro, e hai giustificato le tue sorelle con tutte le abominazioni che hai commesso. Tu che hai giudicato le tue sorelle, porta il tuo vituperio, perché con i peccati che hai commesso ti sei resa più abominevole di loro. Esse sono più giuste di te. Su vergognati e porta il tuo vituperio, perché hai giustificato le tue sorelle. 16, 51, 52. Dobbiamo accettare la sentenza dell'Eterno. Non vi sono mezze misure quando si tratta di seguire Dio. Chi non ubbidisce ai suoi comandamenti non solo diventa come un incredulo, ma molto peggio. Il pericolo più grande per l'avanzamento del regno di Dio non sono i detrattori della fede cristiana, ma coloro che dicono di essere cristiani e vivono peggio dei pagani. Non è sufficiente porre fede in Cristo per onorare Dio con la nostra vita, perché per vivere in modo degno del Vangelo occorrono tante virtù che devono coesistere armoniosamente. Il messaggio del Vangelo non toglie automaticamente idee sbagliate o principi nocivi in chi lo accetta, ma spesso viene filtrato, vissuto, presentato con le distorsioni della natura corrotta. I primi cristiani ne sono un esempio. Gli abitanti di Tessalonica erano inclini ad essere fannulloni. E quando accettarono l'Evangelo con il relativo messaggio del ritorno di Cristo, alcuni diedero un aspetto spirituale alla loro pigrizia e aspettavano di essere rapiti nel bel dolce far niente. 2 Tessalonicesi 3, 6-12. Gli increduli, quando non vogliono lavorare, non adducano ragioni moralistiche, ma i credenti sono in grado di giustificare un loro malsano comportamento, attribuendolo a motivi condotti dallo Spirito Santo. Questo li rende peggiori degli increduli. A volte possiamo anche stupirci del comportamento di coloro che si professano cristiani, ma fin dagli albori del cristianesimo alcuni credenti erano peggio degli increduli. I credenti che abitavano nella immorale città di Corinto cercavano una vita cristiana che potesse compensare l'immoralità nella quale soggiaceva la popolazione. Ma nel volere esprimere un culto guidato dallo Spirito di Dio, erano giunti ad essere peggio delle persone comuni, non usando il discernimento senza il quale non si è delle persone psicologicamente adulte. Durante il culto pregavano in lingue sconosciute, producendo dello smarrimento e confusione ai presenti. 1 Corinzi 14, 15, 20. E come se ciò non bastasse, la comunità tollerava che qualcuno convivesse con la moglie di suo padre, cosa che, stando a ciò che disse l'Apostolo Paolo, non era neppure nominata tra gli increduli. 1 Corinzi 5. 1. Difficile spiegare un simile atteggiamento da parte di chi si professa credente in Cristo, eppure tutto ciò non fa che confermare che nel regno di Dio o si osservano tutte le sue regole o si diventa peggio degli increduli. In effetti altri credenti spinti da uno spirito non certamente cristiano erano pronti a occuparsi del regno di Dio e del prossimo, ma non si occupavano dei propri familiari, al punto che l'Apostolo Paolo dovette scrivere: «Ma se uno non provvede ai suoi, e principalmente a quelli di casa sua, egli ha rinnegato la fede ed è peggiore di un non credente», 1 Timoteo 5, 8. Per credenti estremisti e fanatici senza discernimento, è facile dedicarsi al regno di Dio per trascurare i propri doveri familiari, ma il primo comandamento rivolto verso il prossimo è quello di onorare il padre e la madre. Intendendo con questo comandamento che il primo campo di missione è rivolto verso cospiri poveri, coloro con i quali si condivide strettamente la propria esistenza, compresi i figli e il coniuge. Trascurare i bisogni morali e fisici dei genitori, dei figli e del coniuge è un crimine che i credenti non dovrebbero conoscere. In un mondo dove impera il fanatismo religioso, l'ordine estremista di Gesù di amarlo con tutto il cuore, la forza e l'anima non disimpegna il credente dall'essere prima di tutto umano nelle sue manifestazioni di fede. Se il credente non è umano, diventa disumano e peggiore di un incredulo. Chi crede in Cristo deve nutrire una speranza futura, perché se così non è il più miserabile di tutti gli uomini, 1 Corinzi 15, 19, anche degli atei, è simile speranza lo stimola ad essere sobrio e santo, 1 Giovanni 3, 3, per non essere peggiore di un incredulo. Marzo 2006. Ellero.